suppongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Rotte coglioni con questo programmino, ma perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, Voci dalla piazza di Salvini, sentite. C'è più una sicurezza, vengono qua, chi arriva qua prima fa quello che vuole, va, io mi sono rotto i coglioni, va, sono siciliano, però sono con la legalità, ne ho le palle piene di tutti questi schifosi, parassiti e froci, che poi almeno ne mettiamo pure queste, perché sono pure froci. Ma sono froci chi? Parassiti, ladri, froci, ma froci chi? Che bella gente, guarda. Poi c'era uno, Tu pure questo, sai, Parenza, non si sente una mazza. C'era uno che è un telefono fisso, non me ne frega nulla. Appartiene alla Chiesa Ortodossa. Chiesa Ortodossa Italiana. Chiesa Ortodossa Italiana. Con la Lega. Perché noi siamo una chiesa ad origine apostolica, di ispirazione neotemplare. Dopo l'apostasia della prima Roma, la caduta della seconda, oggi l'unica salvezza può essere la terza Roma, Mosca. Anche quelli della Chiesa Ortodossa che vogliono la terza Roma sono con Salvini. Anche Mattarella intanto critica il renzicottero. Io faccio Roma-Firenze in treno, hai esigenze di sicurezza maggiori delle mie? Si chiede il Presidente della Repubblica. Ed effettivamente, caro Parenzo, questa roba qui è incredibile. Non tanto perché uno non possa andare, so che tu difendi questa cosa, il Presidente del Consiglio deve andare anche in elicottero, per la sicurezza, eccetera, eccetera. Però la questione è chi lo fa. Se lo fa Berlusconi, se lo fa il signor Berlusconi, chi se ne frega? Cioè non ci si aspetta sobrietà da Berlusconi. Ma che c'è della sobrietà? Non ci si aspetta sobrietà, aspetta, non ci si aspetta sobrietà da Berlusconi, perché Berlusconi è Berlusconi. Non ci si aspetta sobrietà da altri della Prima Repubblica, perché sprecavano e scialacquavano e se ne sbattevano i coglioni. Renzi che si presenta come l'anticasta, come quello del no alle scorte, come quello eccetera eccetera eccetera, che prende l'elicottero per andare da Roma a Firenze e soprattutto ci si accorge, secondo calcoli fatti e pubblicati oggi sul Fatto Quotidiano, che ha fatto più ore di volo di Berlusconi. Beh, quello è il punto. Ci si aspetta da Renzi un altro tipo di comportamento. Questo è, se tu ti presenti come quello anticasta, la rivoluzione, poi non puoi prendere l'elicottero per andare da Roma a Firenze. La differenza è solo questa, amico mio. Io mi ricordo che tempo fa tuonava contro la scorta ai sottosegretari che non sono in pericolo. Certo, diceva i sottosegretari, però questo era il clima. Adesso l'elicottero da Roma a Firenze. Il numero delle scorte, infatti, scusa. Dai, su, dai, forza, dai. Questa cosa dell'elicottero tra Roma e Firenze è ingiustificabile. Comunque la metti, è ingiustificabile. Altra cosa è che le scorte sono troppe in questo momento, le auto blu sono troppe, c'è bisogno di ridurre questo tipo di lavoro, ma non c'entra niente con Biagi, mi perdoni, perché una cosa è una persona che è in pericolo, io certo. Un sottosegretario in pericolo non li vedo, le dico la verità, non so se lei immagina che il sottosegretario sia, io ho fatto il sindaco di Firenze e non ho mai avuto la scorta fino a che non ho fatto il Presidente del Consiglio. Allora, buon anno. Ma c'è tempo, non ti preoccupare, c'è tempo, c'è sempre tempo, soprattutto c'è tempo che tu ti rimetta con una connessione che si capisca di più, soprattutto il telefonino è meglio del numero fisso, abbiamo capito questo. Allora, no, questo non è possibile. Sì, è possibile, è molto questo possibile. Non credo. Sì, questo credo. Allora, Buonanno ci ha rivelato di essere stato bloccato su Facebook e addirittura ha aggiunto: Facebook ha bloccato il video del mio intervento a Piazza Pulita, Zuckerberg è come il califfo, forse ha origini rom. Questo dice Buonanno. Ora devo dire la verità, non si capisce per quale cazzo di motivo Facebook, credo su denuncia di qualcuno, debba bloccare tutti. No, ma è sbagliato. Ma adesso arriva lui a criticare Zuckerberg. Ma che c'entra critico Zuckerberg? Io critico il fatto che uno posta un video. Ma è normale che se io ti ma no, perché è un sistema così per cui tu accetti le regole. Ma è sbagliato. Se mi insulta io lo blocco come su Twitter. Ma è sbagliato che? Fatti insultare, ti piace. Ma non c'entra niente, non hai capito? Ha pubblicato il video di Piazza Pulita, sì. Basta, solo quello. E se Facebook lo ritiene insultante, lo blocca. Ma no, ma è qualcuno che ha protestato, è Facebook. È ridicolo, si può dire che è ridicolo o no? Si può dire che è una follia questa roba qui o no? Boh, secondo me no. No, vabbè, secondo te figurati, cioè, per te andrebbe bloccato quasi tutto, tranne quelli no. Che dai, su. Comunque noi invece alla faccia di Zuckerberg lo mandiamo. Ci sono, dopodiché, ci sono. Allora adesso io ho imparato che i rom, gli zingari sono il massimo di quello che c'è in Italia, della correttezza, eccetera, eccetera. Tutti gli altri cosa. No. T'ha detto sono la feccia cosa. Della società. La feccia della società. Sei un razzista. No. Ciao, grazie. Sei un razzista. No. Quando fai queste affermazioni sei un razzista, no. Perché ma la signora sono la feccia della società. Scusate, no. E tu sei un razzista. No, il problema razzista. Non è Casa Pound, il problema della Lega sono quelli come te, che sei proprio fascista. Fiorella Mannoia, intercettata dalla redazione della Zanzara, cioè Fiorella Mannoia, dice che per lei Buonanno è il nulla, il nulla. Quindi è il nulla per lei Buonanno? Per me Buonanno è il nulla, non merita, secondo me non merita nemmeno di risposta. Poi dice che la colpa è di Formigli. Che invita ancora Buonanno dicendo sostanza che Formigli è peggio di Maria De Filippi. Ma io mi domando perché Formigli lo invita, però. Cioè, noi parliamo sempre di questi personaggi, ma non parliamo mai di chi li invita. È perché fa audience, probabilmente. Appunto, per cui basta, di cosa stiamo parlando? Non parliamo di niente. Poi dicono che il nemico numero pubblico è Maria De Filippi, dai. Ma si può attaccare un conduttore perché invita Buonanno? A Combà è stato un pezzo di televisione formidabile. Cioè, quando Fassina, incazzato, ex responsabile economico del Partito Democratico, dà del fascista e del razzista a Buonanno. Quando Buonanno attacca la rappresentante dei Rom, è stato un pezzo di televisione pazzesco. Buonanno è lo scalino più basso dell'animo umano. Ma che cazzo vuol dire? Ma che dici? Ma cosa dici? Ma lascia perdere, che c'entra il fatto che non lo puoi invitare coso? Che non lo puoi invitare. Cioè, e allora che dici? Allora che uno dici? Può invitare chi gli pare. Il Mahatma Gandhi diceva: la persona che non è in pace con se stessa sarà in guerra con il mondo intero. Ma che c'è? Ma tu stai dicendo che ha problemi personali? Che Buonanno ha problemi personali? No, non ha problemi personali, ha problemi con l'umanità, Buonanno. Che è una roba diversa. Ha problemi con l'umanità, cioè col genere umano. Allora, il signor Lerner dice che anche Madonna ha detto che in Italia puzza di fascismo. C'è puzza di fascismo, signor Lerner. Ma vai a fare. No, il signor Lerner però cita Madonna. Ma cita Madonna che non ha detto questo, peraltro. Ha detto. Poi diremo qualcosa anche su Madonna, va Lerner. Dietro a questo brutto clima c'è un umore più profondo, pericoloso. È venuta perfino a notarlo in Europa e in Italia una cantante pop, Madonna, che ci ha avvertiti. Qui si sente puzza di fascismo. Ma avvertito cosa? La signora Madonna viene qui in Europa e in particolare in Italia, ma anche altrove, con 58 persone al seguito. 58 persone al seguito. Pagate, tra l'altro, immagino, dalla televisione italiana quando è stata da Fazio, e quello chi se ne frega, problemi della RAI. 58 cazzo di persone pagate da noi per venire qui, per venirci a dire che in Europa c'è puzza di fascismo. Ma andasse a fare in culo, Madonna. Ma viene qui, pagata dalle televisioni francesi, dall'Italia, eccetera, per promuovere. promuovere qualcosa e ci viene a dire che in Europa c'è puzza di fascismo. In Europa sento puzza di fascismo, di autoritarismo, paragonato alla Francia al nazismo. Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? Viene qui con 58 persone in Europa a darci lezione. Si porta dietro 58 persone. Ma chi cazzo è 58 persone? Si porta. Madonna, me la devi parlare. Ma chi ha detto? Ti sembra? A me sembra interessante una che viene in Europa con 58 persone e dice che l'Europa le sembra una prigione. 58 persone. Ma scusa, una che viene qua con 58 persone libera di dire il cazzo ma che vuole. Ma io non ho capito, ma dai, su. Divento pazzo. Intanto voglio salutare il mitologico Gio Formaggio. Ciao Gio. Ciao a tutti, ciao. Come andiamo? Sindaco di Albettone, provincia di Vicenza. Il sindaco che vive sostanzialmente con una bel fucile sotto le coperte. Però aspetta un attimo che devo finire su Madonna, caro Gio, perché sono avvelenato qui. Non sarà mica da andarne orgoglioso, spero. No, aspetta un attimo, aspetta un secondo, aspetta, che è successo qualcosa oggi di incredibile in casa nostra, no? In Francia, dove Madonna si masturba in televisione, ma a Oderzo, dove sparano ai ladri per aria per intimorirli, e fanno bene, e fanno molto bene. Ma la signora Madonna, leggo oggi adesso su Dagospia, no? Madonna, ti leggo testuale, Madonna si masturba, cioè davanti alla televisione francese, Le Grand Journal, la trasmissione, il pubblico chiede a Madonna: tu che sei la regina delle provocazioni, ci dai un esempio? E lei comincia a carezzarsi tra le gambe. Il vignettista di Charlie Hebdo, che era lì con lui, invece tira fuori, insomma, le sue parti intime, tira fuori il pisello. Allora tu mi stai dicendo che questa signora Madonna, che si viene a masturbare in televisione in Francia con 58 persone al seguito, 58 pagate anche da noi quando è stata in Italia, ci dà lezioni sulla democrazia, sul fascismo, sul nazismo? Avrà lo stesso valore quel che dice Madonna di quel che dice Madonna. Ma no, guarda, una che ci viene a dare lezioni di democrazia in Europa, masturbandosi in televisione in Francia. Perché è la prova che c'è il massimo della democrazia, no? L'opinione di Madonna varrà almeno quanto quella di quelle. Della democrazia in Europa non vale un cazzo. Scusami se te lo dico. Comunque voglio far sentire le voci di Oderzo, i signori abitanti di Oderzo, hanno sparato in aria provocando un casino pazzesco di reazioni. Si parla di Far West, reazione all'americana, eccetera eccetera. Sentiamo. Io spero che di non trovar nessuno in casa, perché ho un nervoso attorno e credo che farò anch'io come ha fatto il benzinaio là. Sono sicuro. Potrei fucili, però tutti abbiamo sparato. Siamo venuti fuori subito con fucili a pompa, 8 colpi, 2 colpi, pistola, e qua abbiamo sparato. Spero che abbiano sentito che zona è questa. Formaggio, hanno fatto bene? Sì. Hanno fatto bene o no? Hanno fatto benissimo. Benissimo, eh? Benissimo, ma hanno fatto benissimo. Ma a sparare in aria oppure si può sparare anche, cioè se lei si trovasse di fronte un ladro a casa sua, dentro casa, sparerebbe ad altezza d'uomo? Mi dica la verità. Immediatamente, perché ho 3 bambini piccoli. Immediatamente. E dentro casa mia non ci deve venire nessuno. Lei quante armi ha, signor Formaggio? Io ho una pistola e un fucile a pompa. Ma davvero lei dorme spesso col fucile sotto il cuscino? O è così un modo di dire? L'ho detto più di qualche volta, e finché non mi sentirò sicuro a casa mia continuerò a dormire col fucile a pompa vicino al comodino. Per cui io non capisco una cosa: queste discussioni che ci sono sul Far West, si dice la reazione all'americana, adesso probabilmente si è aperta un'inchiesta nei confronti di chi pare 2 persone abbiano sparato lì a Fedio Oderzo, a lei pare tutta una follia? Cioè fosse per lei uno si potrebbe armare tranquillamente, sempre seguendo le regole, però bisognerebbe armarsi di più o no? No, sa, io voglio che le leggi in Italia cambino e che lasciano fare a poliziotti e carabinieri il loro lavoro, perché qua stiamo mettendo in galera poliziotti e carabinieri per tentata tortura contro i delinquenti, e lasciamo fuori i delinquenti, oppure li teniamo dentro una notte e il giorno dopo sono fuori e liberi di fare quello che vogliono. Io voglio che le leggi funzionino. A me non piace dormire con la tensione di avere un fucile vicino, ma soprattutto con la tensione che qualcuno possa entrare a casa mia. Io ho quattro porte blindate in entrata e se vogliono entrano, no? Quindi è diventata una cosa invivibile, inseriate ovunque. E hanno rubato qualche volta a casa sua o no? No. Allora, nel mio appartamento no, però nel mio ristorante sono venuti 3 volte, hanno portato via tutto, e nelle famiglie vicino la stessa cosa, quindi non si può più vivere, bisogna che le cose cambino, insomma. Parenzo, dove sei? Dove vuoi che sia? Che ne so, parla, che ne so, stai zitto. Ma sto zitto, sono scioccato, per fortuna al mio fianco c'è Oliviero Toscani con la sua... con la sua creatività, che ti voleva mandare a fare in culo. Vabbè, dopo parliamo. Ma no, ma perché anche lui giustamente ha sentito queste robe, Oderzo, i leghisti, Buonanno, ha delle cose abbastanza importanti da dirti sui leghisti. Vabbè, dopo. Però volevo chiedere ancora un'altra cosa a Formaggio. Cioè, a parte... Ma che Formaggio? Ma adesso uno che ha un fucile in casa e se ne vanta. Ma qual è il problema? Non ho capito. Un fucile. Ma di cosa stiamo parlando? Formaggio vuole rispondere. Tieniti i delinquenti in casa, allora. Tieniti i delinquenti, dice. Ma secondo te è intelligente che uno dica: io ho un fucile in casa e lo tengo sotto al letto? Ma certo, perché non ho capito qual è il problema. Anche un motivo ma di scusa. Vanto politico. Ma ormai siamo Formaggio, Formaggio risponda lei, per favore, a Parenzo. Ma no, non c'è da allora, io non faccio nessun vanto politico. Io ho un fucile legalmente detenuto e a casa mia faccio quello che voglio. Io sono un cittadino di serie A perché ho la fedina penale pulita. Ma sono quei bastardi che vanno in giro per le case a picchiare le nonne di 90 anni per portargli via le fedi, devono essere ammazzati, è ora di finirla con tutto sto buonismo. Senta, ma lei che ne pensa dei Rom? Sono la maggior parte sono ladri, secondo lei? Ma allora, io non è che dica che i Rom sono tutti ladri, no. Solo che tanti Rom sono ladri e quindi dobbiamo cominciare a schedarli. Perché come schedarli? Che vuol dire schedarli? Scusi, sono già schedati, spesso sono italiani. Cosa fate? Dove abitate? Con come vi mantenete? Domani mattina venite a schedare Gio Formaggio e la sua famiglia, nessuno vi dirà niente, vi apro la porta, prego. Perché non possiamo schedare questi qua che sono dei covi di delinquenza? Cioè, i Rom sono dei... Dove abitano i Rom? Dei sono covi di delinquenza. COVID, bene, non dica feccia. No, ho detto covid di delinquenza, che è uguale, non è la stessa ho offeso cosa. Nessuno. No, non ha offeso nessuno, sono covid di delinquenza. Lei dice i campi Rom, dove vivono i Rom, sono covid di delinquenza e vanno tolti, immagino, vanno distrutti o no? No, vanno regolamentati. Allora, io non ce l'ho con loro perché vivono in una carovana o in una roulotte. Però, lavorate, come vi mantenete? Ma secondo lei hanno voglia di lavorare o no, secondo lei? Ma sa, io non ho mai visto nessuno con voglia di lavorare. Spero di essere contraddetto, eh. Torniamo forse anche con il mitologico Gio. Poi mi deve spiegare perché si chiama Formaggio di cognome Gio Formaggio, oppure un nome così inventato ad arte. A proposito delle sparatorie, si può sparare, non si può sparare, è giusto sparare, è giusto avere le armi, non è giusto, è un pericolo usarle o non usarle. Beh, c'è stato uno scontro pazzesco l'altro giorno tra il gioielliere di Nanto, dove è stato ucciso quel Rom rapinatore, e il signor Liuzzi, sentiamo. Davanti a faccia, ma guardi che lei non è il primo nell'ultimo, però non voglio neanche un giorno, allora che beh, ce la mettiamo via, ma cosa sta dicendo? Tu hai ricevuto la minaccia, ma cosa sta dicendo? Non è il primo nell'ultimo, ma si vergogni, prima cosa, non è il primo e l'ultimo, cosa facciamo? Auguriamo che ce ne siano degli altri. No, ma non si può andare per strada a sparare, se vai a casa lei, ma È 9 anni che vive già, è già accaduto, quindi chi se ne frega, cioè, ragazzo, già accaduto, 9 anni, caro amico, 9 anni. Aspettate. Ma voglio vogliamo sentire questa Madonna, caro Parenzo, la signora Madonna, la Francia. Ma sì, ma non ho capito perché ce l'hai così con Madonna e non con l'artista Madonna e non con tutte le stronzate. E chiedo scusa se ho usato questa parola forse un po' forte, che ogni giorno dicono nei talk show gli amici della, della del duro Nord, come si ma chiama? Chi ha, ma chi ha detto? Ma il problema non è questo. La Lega. La Lega, sì, quello sta a casa dei Toscani. È casa enorme, immagino, una casa enorme, no? Si chiama Lega. Si chiama Lega. Ciao Oliviero, come stai? Io state bene, ragazzi. Bene, ma ho saputo che è finita la vicenda giudiziaria, ti volevano denunciare, però in realtà l'hanno archiviato. Sì, però c'è un'altra associazione di Vicenza che ti vuole portare in tribunale, non finisce mai questa storia. Andiamo in tribunale, 10 anni che vado in tribunale con la Lega, ho sempre vinto. Associazione di consumatori, questa volta di Vicenza, incazzati come bestie per questa cosa tua dei Veneti. No, ma continuano a consumare, che va bene. A consumare vino, dici te. I finti che consumano, no, io non ho detto di consumare vino, io ho detto tu, loro consumano il vino. Senti, allora ma... ti voglio dire questo, poi te lo ripasso che è qui vicino. Sì. Beh, figurati che questa sera sai cosa ha fatto per rispondere alla per festeggiare la sentenza? Lo faremo a Matrix. Faremo il collegamento da un'osteria con tantissimo vino. Ma una cosa originale, ammazza, oh. Mazza che trovata, oh. Ordinato. Ma che soltanto lui ha le trovate originali, che solo Cruciani ha le trovate. Vabbè, allora. E niente, ci sarà questo banchetto con i cantastorie toscani. Con il cantastorie toscani. Quelli che cantano a rima, sai te, tu dici Salvini, che rima fa con Salvini? Che rima fa Salvini? No, non so io, Carini. Dai, su, che sei diventato moderato adesso? Moderato un cazzo. Salvini, no, lascio ai... Alla libera interpretazione. Alla libera interpretazione tutto ciò che finisce ini. Cioè, cretini, dici. No, io non ho detto, dici tu cretini perché forse sei un po' influenzato. Scusa, ma che ne pensi del signor Buonanno che dice che i Rom sono la feccia dell'umanità, della società, quello che è? La feccia poverino. Della società. Beh, poverino. Sai, non è il suo. Siccome lui lo è, allora ha bisogno di compagnia. Cioè, tu dici, essendo lui stesso la feccia della società. Ha bisogno di una feccia della società, bisogna di compagnia perché va bene in Roma. Ma lui dice che un sacco di Rom rubano, Un sacco di Rom rubano e. Ma sai quanto ha rubato il governo italiano? Sai quanto ha rubato i politici? Cioè, tutti hanno rubato. Cioè, i leghisti, tu dici. Cioè, non hai mai rubato niente tu. No, io no, per fortuna. Anche tu non hai rubato niente, però, scusa. No, ma tu dici, anche i leghisti. Anche i leghisti hanno rubato un sacco di soldi. Beh, non è c'è stato il problema, no? Dei diamanti. I diamanti, sì. Tutti, sì. Vabbè, comunque. E quindi, è diventato una specie di icona ormai. Ma non vogliono fare i politici Rom. Rom sono Rom. Vedi, i politici si fanno votare per poter rubare. Farima, vedi? Mentre i politici si fanno votare per rubare, i Rom non pretendono di essere politici. No, non pretendono essere politici. Sì, ma ti stanno sul cazzo quello che ruba. Ti stanno sul cazzo pure a te i Rom, dai, inutile. A me mi stanno sul cazzo tutti quelli che mi stanno sul cazzo e non sono solamente i Rom, ci sono giornalisti. Però tu vivresti accanto a un campo Rom, dimmi la verità, nemmeno tu che fai tanto il coso, vivi in campagna, tranquillo, in Toscana per i cazzi tuoi e non andresti mai a vivere accanto a un campo Rom, dai. No, ma non andrei neanche a vivere in certi alberghi, in certi posti, che non, in certi ristoranti. Cioè vivresti per esempio certi condomini. No, non vivrei. Quindi accanto a casa di Salvini andresti ad abitare? Vicino alla casa di Salvini? Sì, che ne so. No, ci sono troppi? Troppi? No, li abitano Comunque Salvini è diventato ormai il leader del centrodestra. Salvini è il mio idolo. È il mio idolo. L'hai visto lì sul palco a Roma con tutte le bandiere sotto? C'era anche qualche drappo Salvini di Mussolini, però. Facendo questo è peggio di quando Renzi parla francese o inglese. Perché dici? Lui parlando italiano parla peggio di Renzi quando parla inglese. Ma no, ma non parla male, dai, su. Dai, ma è un disastro, poverino. Ma tu dici, non sa, non è ignorante, tu dici? No, non ho detto che sia ignorante, è che quando parla fa ridere, devo dire che è un comico. Ma no, dai, un comico è uno che c'ha un sacco di consenso. È andato lì con la maglietta stacchio a favore del benzinaio. Adesso non si può nemmeno. Ma neanche in prima media fai più quelle robe lì, dai. Ma scusa un attimo, tu se qualcuno entra a casa tua non gli spari addosso, Olivier? Ma se uno entra in casa mia, lui, se ha un'arma, è molto più veloce di me perché è un professionista. Quindi bisogna stare attenti a non avere armi. Cioè non bisogna avere armi, non bisogna avere armi. Ma no, ti fanno sempre formaggio, formaggio, formaggio, risponda a Toscani. Formaggio, risponda a Toscani che dice che non bisogna avere armi perché ma è peggio. Ma no, è pericolosissimo. Aspetta, no, aspetta, io, aspetta, aspetta Formaggio che ti risponde, il sindaco di un paesino in provincia di Vicenza. Gio? Allora io non è che dico che bisogna avere armi. Beh no, io ce l'hai. No, io ce l'ho l'arma. Che... Sì, non c'è l'arma. C'ha l'arma, c'ha l'arma, c'ha una pistola e un fucile. Legalmente detenuta. Legalmente detenuta. No, no, ma io non metto in dubbio, ma tanta gente conosco che ha l'arma, ma io trovo che sia molto pericoloso. Ma no, ma allora armato è molto più fa il professionista con l'arma, a meno che lei sia un killer di professione, so io. No, no, no, no, no. Ma tu sai sparare, no, Gio, sai sparare o no? Allora io non so dove vivete voi, però qua in Veneto, a Vicenza, ogni altra sera c'è un furto su un paese vicino al mio, no? Sono venuti a casa mia, sono venuti al mio ristorante, continuano. Ma allora, io voglio che lo Stato mi protegga, perché sono un onesto cittadino. E lo Stato non ti protegge. Pago le tasse, lo Stato non mi protegge. Allora io faccio un plauso a tutti i carabinieri e i poliziotti che sono anche in ascolto. Vabbè, no? Quello va bene, perché, sì. Siamo dalla loro parte, però vorrei che il governo, chi può fare le leggi, no? Invece di litigare ogni volta, è stata colpa di Renzi, colpa di Berlusconi, colpa della sinistra, colpa della destra, facessero veramente qualcosa. Ma dovrebbero, d'accordo, ma dovrebbero facilitare la circolazione di armi, secondo te, per esempio? No. Beh, io sì, vorrei, io voglio, allora ve lo dico in diretta, voglio liberarmi anche del mio fucile, però voglio che nessuno venga a casa mia. Ho capito, ma quello non è che si può impedire col decreto, io giro il mondo per lavoro. Ma no? Come fanno poi dicono che segnano le case anche da te, o no? Tu l'hai detto. Anche da me, io ho pubblicato i loro segni. Ma sono nomadi? Sono nomadi rom quelli che mettono sti segni? Non so chi siano, so che questi segni sono apparsi e nelle case sono andate a rubare. Allora, io non voglio generalizzare rom o non rom, no, ci sono ladri anche che vivono in appartamenti di lusso e non di certo in roulotte o campi nomadi, no? Però voglio soltanto essere sicuro. Allora, io vado spesso a Dubai per lavoro. A Dubai non succede niente. Vabbè, nonostante capito, siano però 3 milioni e mezzo di extracomunitari, chiamiamoli. Ho capito, no? Ma Dubai, cioè, non mica sarà una democrazia, Dubai, amico mio. Dubai te tagliano le mani, te tagliano le mani a Dubai. Tu che faresti ai ladri? Taglieresti le mani? Cominciamo a tagliargli un dito, cominciamo a metterli in carcere o a farli lavorare e ai lavori forzati, dici tu, un po' di lavori forzati. Insomma, allora se io sbaglio devo pagare anch'io. Capito, Toscani, togliamo un dito. Toscani sta provando, adesso ti ha risentito perché se abbiamo le cuffiette siamo vicini come due fidanzati. Volevo dire, adesso gli ripasso la cuffietta. Vabbè, dai, forza, dai. Volevo dire al signor Cheese. Perché ti chiami Formaggio? Ecco, perché è il mio cognome. È veramente il tuo cognome? Gio oppure Gio è il tuo nome? Allora, Gio è il mio nome, il mio cognome. Ma voglio spiegargli che a Roma qualche mese fa è scoppiato uno scandalo in cui i politici hanno rubato ai rom. Si chiama mafia capitale. Ma che c'entra questo, scusa? I politici hanno rubato ai rom in quel caso. Ma che cosa c'entra? Allora, non fate in modo che diventi legale andare nelle case e pestare i vecchietti e portargli via la pensione, perché sennò vuol dire che veramente siamo completamente... Ma chi ha detto? Ma allora facciamo qualcosa perché non succeda più. Senta, ma Stacchio è il tuo eroe? Ma Stacchio è un mio amico ed è anche il mio eroe, perché è una persona tranquillissima, buonissima e bravissima. Si sveglia alle 6 del mattino e lavora fino alle 10 di sera. Ha difeso una ragazza che era in gioielleria e dopo questi qua, allora, 5 terroristi, perché chi va in giro col Kalashnikov è un terrorista, è un terrorista contro un vecchietto di 65 anni con un fucile, 5 contro 1. Ciao Gio, ciao, presto, grazie, ciao. Allora, Fausto da Udine, Fausto, dimmi Fausto. Ciao. Vai. In relazione a Madonna, forse sono stati sbagliati i termini del problema, cioè il problema è che persino una che fa la showgirl, che viaggia con 58 persone a seguito, si è accorta che cosa? Che in Europa c'è puzza di fascismo. fa in Italia soprattutto, ma che andò mai punto di vista. Fausto, ma di che stiamo parlando, tu, dai, su, ma si dovrebbe vergognare, Madonna, non perché, non perché si masturba in televisione, che fa benissimo, fa, no, vabbè, è meraviglioso, è stupendo, è fantastico, cioè la sua, come dire, il suo estro è, non sto discutendo, Madonna, da questo punto di vista, ma non ci venisse a rompere i coglioni con l'Europa che c'è puzza di fascismo quando uno liberamente circola con 58 persone, ma di che sta parlando, è una stronzata questa roba qui, una stronzata. Che non è proprio esatto quello che ha detto che c'è dell'intolleranza, che no, come no, ha detto che c'è un pericolo incombente, ma lei è una vecchia polemica con Marine Le Pen da tanti anni. Però tu che sei un professionista della comunicazione, cosa, invece che... ci passi sopra, ma no? Quale? A questa puzza di fascismo, mentre il tuo collega ogni tanto non parlo a livello europeo, parlo a livello italiano, se ne accorge. Non c'è nessun pericolo di fascismo in Italia, ma nessuno, non c'è alcun pericolo di fascismo, ma che puzza, ma quando mai? Fermi tutti, fermi, fermi. Non siete seri per niente. Sei ancora in casa, Evo? David? Sì? David? Sì? Mi senti? Ah, io sento perfettamente. Perfetto, no? Perfetto. Allora ti dico una cosa. Vuoi non che sai ti... che apparecchio ho, ma poi ti spiegherò. Sì, ti voglio citare, oppure proibito. No, è andato via formaggio. C'è Toscani che voleva parlare col signor Cheese ancora. Sì, aspetta. Il British Journal of Urology. Te lo posso citare oppure no? Il British Journal of Urology. Non mi interessa. No. Io vorrei fare anche un sondaggio, cari ascoltatori, popolo della Zanzara, popolo della radio collegato con noi, persone che siete all'ascolto in macchina con i bambini, state tranquilli, state calmi, si parla di cose normali, cioè si parla di cose di cui si parla tutti i giorni, ci poniamo domande tutti i giorni, soprattutto noi maschi, e qui siamo tre maschi, io, il professor Toscani, il professor Parenzo. Allora, la dimensione giusta del pene, giusta, quello l'ho letto. La dimensione giusta del pene, secondo il British Journal of Urology, che ha fatto una ricerca presso il King's College of London, sempre dall'Inghilterra arrivano queste cose, la dimensione giusta, corretta del pene in erezione, cioè è di 13 cm, di 9 cm a riposo e di 13 cm durante l'erezione. Per quanto riguarda la circonferenza, 9 cm e 11 cm se eretto. Capito? Ora voglio capire. Secondo te, sì, secondo dimmi, così chiedo a Span, sì, secondo te, il nostro editore che in questo momento sta uscendo dall'ufficio e si sta mettendo in macchina dopo una giornata fatta di 18 ore di lavoro, dice: no, però aspetta, oh, forse c'è un errore sulla circonferenza, forse c'è un errore sulla circonferenza, sì, è vero, adesso ricontrolleremo le cifre sulla circonferenza, sì, caro David. Al di là delle circonferenze e delle cifre, no, però secondo ti confermo, 9 cm di riposo e 13 durante l'elezione. Saranno contenti gli amici della Confindustria, cioè i nostri editori che ma tu dai, scusa, ma perché dati, i signori della Confindustria, i signori industriali non possiedono il pene? Adesso, non posseggono il pene? Ma adesso, ma secondo se lo controllino, se lo controllino, i dirigenti se lo controllino, se lo controllino e misurino. Ma cosa dici? Siete normali o non siete normali? Adesso, ma ti pare che sono in macchina i massimi dirigenti di questo paese con un righello? Certo. Fermano la macchina e si misurano il pene. Ma che roba è? Allora, se siete sotto i 9, non siete normali, secondo gli inglesi, Se siete sopra i 9, siete normali, a riposo. Adesso non vi dico di controllarlo in una situazione di, come dire, di erezione, perché è un altro discorso. Comunque chiudiamo la parentesi. Ti prego. No, beh, ti prego, no. Controllate bene voi, dirigenti massimi dell'industria italiana, imprenditori di tutti i tipi, gente normale, camionisti, prendete un righello, controllate. 9 cm sopra c'è la felicità, sotto il dramma. Alcune voci prese da Faedi Oderzo, esattamente, voglio farvi ascoltare. Io e Parenzo prima abbiamo chiamato una signora che abita Via del Gambero, che è una delle zone dove si sono sparati dei colpi in aria per cacciare i ladri. Hanno fatto benissimo. Pronto? Pronto? Sì. Sì, sono Parenzo, salve. Ma come va lì a Via del Gambero? Che ci sono sparatorie continue, mi pare. Vieni a chiederlo a me? Eh sì, perché là hai mega detto che spara in Via del Gambero. Certo, se ci sono i ladri loro sparano. Dunque è giusto che sparano, signora? Non è giusto che li uccidano, ma è giusto che si facciano capire che sono armati anche, anche dove vanno a rubare. È giusto che facciano capire. Ma voi siete, lei pure armata? Certo. E che c'ha di armi? Non le rispondo a queste domande, guardi. Non... Beh, qualche arma ce l'avrà, no? Una bella, un fucile, una pistola, una accetta. Beh, cosa mi viene a chiedere, scusi, Ma sondaggio, signora, è un sondaggio realizzato. Ben, grazie, ma io non le rispondo a queste cose. Ma che armi ha, signora? Ma è bello? Non me lo dico. Un fucile. Va bene, allora giriamo la domanda, perché l'istituto di sondaggio del Ministero degli Interni per Alfano. Allora chiediamo se si sente la paura. Questo chiediamo semplicemente. C'è paura? Da 1 a 10 quanto? Paura? Io paura non ce n'ho, perché sono già anziana e anche se mi colpano, una grazia di Dio. Da 1 a 10, signore, è un sondaggio selettivo. Da 1 a 10, paura signori, quanto? Signori, i figli piccoli hanno ragione di sparare. Senta, i bambini sono terrorizzati, Signora, è un sondaggio da 1 a 10, un punteggio per cortesia, stiamo lavorando, paura quanta? Da 1 a 10 io le dico che non ho paura, ecco. Va bene, domanda numero 2, da 1 a 10 quanto è incazzata? Sondaggio selettivo sempre, Ministero per Alfano. Io non sono incazzata per niente. Chi è che ha sparato ieri a Via del Gambero? Hanno sparato un po' tutti, guardi, quelli che hanno sentito, che ci sono tutti avvisati. Sono i ladri in giro, siamo attenti. Boom, puff, sparato. Anche lei ha sparato allora? No, io non ho sparato. Peccato. Una sparatina sarebbe stata, no? Una bella sparatina, eh? Guardi che lavorano i nostri ragazzi, sa? Lavorano tanto. Per cui questi ladri che vengono lì bisogna in qualche modo punirli, giusto? Bisogna scacciarli in qualche modo, o no? Certo. Comunque hanno sparato un po' tutti. Poteva farlo pure lei, una bella sparata in aria, no? Almeno solo in aria, che ne so, con la sua pistola, il suo fucile. Che c'ha? Un bel fucile da caccia c'ha lei, mi sa. Sì, dai. Bel fucile da caccia, ottimo. Guardi, io metto giusta, signore. Statemi bene. Ciao. Grazie, cara. Ciao. Andiamo a Napoli, Bruno. Vai, Bruno. Bruno, Lucio Verona, vai! Sì, allora Cruciani, stasera hai mandato fanculo la Madonna, hai mandato fanculo... No, Madonna, non la Madonna, stai tranquillo, sì, Madonna, sì, la cantante Madonna. Vabbè, no, sì, c'è una bella Madonna. Differenza, abbi pazienza, scusa. Sì, la Madonna nel senso... Gardlerne non l'ho mandato a fare. Eri lì per dirlo. Ecco, vero, l'interpretazione. E non ti è venuto in mente di mandare fanculo Bonanno? Sì. Perché non ti è venuto in mente, no? Non ti è girato per la testa di mandare fanculo Bonanno? Ma tu mi vuoi dire quello strano, che devo fare? Ti faccio una domanda. Mi vuoi dire quello che devo fare? Mi vuoi dire quello che devo fare? Ti faccio una domanda. Mi vuoi dire quello che devo fare, signor Lucio da Verona? Sì, ma i soliti fascistelli di borgata come sei tu li conosciamo. Sì, certo. Allora, ascoltami qua, ti faccio una domanda. È più feccia della società gente che vive nella merda, che va a rubare, o gli amici di Bonanno, il Frota, Bossi, che prendevano 10.000 euro al mese e rubavano i soldi degli italiani? Chi è più feccia della società? Dammi una risposta, coglione. Hai bevuto stasera? No, hai bevuto? Non ho bevuto, sei tu che sei bevuto. Allora, sei un fascista di chi merda ruba... che difende sempre. Sì, vai, parla, sfogati. Sei un fascista di merda. Sfogati. Sei un piccolo fascista. Va bene, sfogati, Lucio. Hai qualcosa di represso? Una domanda, rispondi, di chi ha più freccia della società? Guarda, chi ruba Chi ruba sbaglia, che sia Bossi, che siano i figli di Bossi, che siano i Rom, eccetera. Gliel'abbiamo detto mille volte che la Lega ha rubato i soldi dello Stato, eccetera. Gliel'abbiamo detto mille volte che hanno rubato i soldi dello Stato. Io non ho detto feccia della società ai Rom e non dico feccia della società ai leghisti, chiaro? Il tuo amico Bonanno, che lo difendi sempre. sempre. Questo io difendo la libertà di espressione, posso non essere d'accordo con Morano su mille cose. Ma quale libertà di espressione? Con un demente non si. No, bene, non ma si tu hai la libertà di dirlo anche qua. Hai la libertà è un di demente, dirlo. Benissimo. È un demente, bene, hai la libertà di dirlo. Se tu, chiami da altre parti e non a Radio 24 in particolare, alla Zanzara, sì, non lo puoi dire da nessuna parte perché ti attaccano il telefono in faccia. Dunque, ringraziami e baciami i piedi. Baciami i piedi. Ringraziami. Baciami i piedi. Baciami i piedi. Al tuo giornalismo di merda. Vabbè, ma lascia perdere, questo te lo lascio dire perché se te lo lascio dire che perché difende, che poi di sotto banco difendi sempre questi quattro fascisti. Va bene. Sfogati che sennò stasera quando torni a casa fai finta di essere provocatore, ma difendi. Quando torni a casa stasera, quando torni a casa stasera, non sei. No, sono già a casa. Attenzione là, che potrebbe succedere qualcosa se non ti sfoghi alla Zanzara, perché questo è un grande sfogatoio. Dunque, tu ti sfoghi e non succedono cose. È un pisciatoio. Bene, allora stai pisciando, appunto, anche tu stai pisciando. Piscia, allora piscia anche tu. È un pisciatoio. Vai in bagno e piscia. Ma avrei piacere di trovarti per strada a farti. E che fai? Che fai, Lucio? Che fai in strada? Sei un servo fascistello di quattro Lazzaroni, che vengono in questa trasmissione. Lazzaroni. Sono Lazzaroni. Talmente idioti, anche quando c'era Sgarbi, no? Sì. Non gliel'hai mica detto quando ti ha detto che lui è in aspettativa. Non gliel'hai mica detto che era un truffatore, cazzo. Che beh, come no? Lui come no? Gli abbiamo detto che era stato. Dopo, detto quando non c'era più trasmissione. Ma quando mai? Hai paura di lui. Hai paura di delle vabbè, sue, vai, sfogati, delle sfogati, vai. Sfogati, dai. Quando siete davanti a Sgarbi. Ti sei sfogato? Ti sei sfogato o no? Ma non ti rendi conto? Ma che ti tu sei sfogato? Come dice Madonna, tu ci porterai al fascismo. Tu sei uno di quei quattro giornalisti fetenti che porteranno l'umanità al fascismo. Perché solo fetenti? Perché sono fetenti? No, qualcosa. Ma anche Berlusconi tu non l'hai mai. Qualcosa di più, perché sono fetenti? Qualcosa di più, amico mio. Mi deludi. Sei anche un pidocchioso, sei attaccato ai soldi. Bravo. Lì che sei lì che difendi la borghesia. Ti stai sfogando bene, sono contento. La falsa meritocrazia, perché voi siete dei falsi meritocratici, perché io vendete fumo, non producete un cazzo, no? Ma io sono entusiasta del fatto che ti ho lasciato sfogare, dunque stasera sei più contento, ti sei liberato di un peso, capito? Ciao, ti ringrazio. Ma che peso, cazzo? Amico mio, ciao. Ho paura di giornalisti come voi. Paura, sì, te la fai sotto. Vai in bagno e fatela sotto. Fascistello. Bravo. Filo nazista sei diventato anche. Ciao, amico mio, ciao. Filo nazista, ciao. Ciao. Vaffanculo, ciao. La Zanzara è il più grande bar d'Italia. Che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? Lorenzo, sei morto durante l'intervento di Lucio da Verona, che hai fatto? Ascoltavo con Toscani il ragionamento del signore, non credo che tu possa... Ragionamento, non è che porti il fascismo, questo no. Dai voce, con mio grande disappunto, sì, alle certo, volte... perché tu sei un perfetto democratico, no, certo. No, perfetto democratico no, perché non sono... Appunto, non sei un perfetto però, democratico, no, lei... ma io non credo che sia democratico dare voce agli idioti, ai razzisti più biechi. Sì, questo amico mio. Non c'entra con la democrazia. Va bene, secondo d'accordo, me. Bravi. No, ma io penso così. Bruno da Napoli, avanti, bravo, per carità. Bruno da Napoli, dai. Le pissoir, vabbè. Bruno da Napoli, vai. Buonasera signor Cruciani. Vai, dimmi caro, dimmi. Innanzitutto volevo dire al telespettatore precedente che se siamo quattro Lazzaroni, siamo cinque perché io ha chiamato, non è che siete state voi a chiamare. Quindi se è intervenuto in trasmissione un Lazzarone anche lui. In oggi modo volevo dire che tutto è benissimo, molti anni fa, quando mi trovavo a Roma con la mia famiglia, tenevo 4-5 anni, sì. E in quell'occasione tentarono dei rom di rapirmi. Ora io non voglio dire... Cioè, i rom hanno tentato di rapirti, non ho capito. Sì, sì. Sì, avevo un 5-6 anni, mi trovavo vicino con la mia famiglia, con mio padre, mia madre, mio fratello. E allora? Stavamo facendo una gita e mi ricordo che avevo 5-6 anni che mi travano in una 131, erano proprio zingari. Ora, questo non significa che, voglio dire, tutti i zingari sono, voglio dire... E allora? E allora voglio dire chisto, voglio dire che qua si dice, chisto. Si parla sempre di zingari. Innanzitutto Parenzo, e mi sembra l'elettrocardiogramma piatto. Perché? Ave sempre ragione. No, l'elettrocardiogramma si chiama che è morto se è piatto, cioè, No, e noi avete sempre ragione, cioè non c'è una cosa, no, io non sento mai un suo parere. Se lei dice una cosa, Parenzo dice il contrario. Ma no, dipende. Cosa, ma dipende da cosa uno dice. Ad esempio, ho criticato il Partito Democratico per la vicenda di De Luca, dicendo che secondo me è stupido oggi chiedere che il PD riveda una legge che ha votato solo perché c'è De Luca. L'ho detto ieri, ma lei forse aveva le orecchie con del cerume giallo e non ha usato il cotton fioc per pulirsele. Dopodiché, posso dire una cosa? Diciamo ignoranza da idiota, ma se in questa situazione in quella quale ci troviamo, permettiamo a una subrettina che è diventata un'artista internazionale di dire che in Italia ci sa il fascismo, e allora mi deve dire lei. No, la cosa incredibile. Non ha detto il fascismo la come signora, no, Madonna. Puzza di nazismo, no, di fascismo. Ha detto c'è puzza di intolleranza. No, che è vero, che è vero, perché c'è molta intolleranza. Senti, la Madonna che viene qui in Italia a farsi pagare dalla televisione italiana con 58 persone al seguito, non ci deve rompere i coglioni, chiaro? Anche 60, il parere di Madonna vale quanto quello di Buon anno, ma perché deve valere di meno solo perché è una star? Ma non è questione di questo. Ma quanto sei diventato demagogo ormai? Ma è una roba incredibile, cosa proprio. Cosa è proprio di una demagogia. Siccome Madonna, adesso arriveranno quelli che telefonano: Madonna, strapagata, non può dire che in Italia c'è razzismo. Ma lo può dire, come il suo parere vale quanto quello di un altro imbecille qualunque. Bene. E chi se ne frega? Io ho tutto il diritto di dire. Ma puoi dirlo, ma è demagogo dire da demagogi. Demagogo. Ma certo, si taccia tutto di demagogia. Ma vabbè. È una stupidaggine. Tutto demagogia. Ma sembri veramente uno di quelli del bar. Vabbè, che dice ma non è possibile, non è mica possibile che ha 58 persone di scorta, sai, secondo me può, è una follia che noi paghiamo per fare venire ma in Italia 58 persone. Tu, come la no? Paga la pubblicità, servizio pubblico, paga, servizio ma pubblico. Cosa c'entra, lo paga la pubblicità. Va bene, allora va tutto Madonna bene, va tutto qua. Bene, non ti preoccupare, ma va tutto, tutto bene. No, ma veramente è incredibile, va tutto ormai. Bene anche che Madonna dica, si masturbi in televisione e poi dica che c'è puzza di nazismo in Europa. Ma non mi interessa quel che fa in televisione, lo giudicheremo. Va bene, è uguale, ma c'è le persone puzza di nazismo. Vanno giudicato per quel che fanno. C'è puzza di nazismo, sul fatto c'è che puzza di nazismo in Europa. Chi l'avrà visto no, dirà bene. No, c'è puzza di nazismo in Europa. Ma il suo parere varrà quanto quello di buon anno o no? Ma chi ha detto il contrario? Allora, basta, fine della cosa. Stai montando una polemica assurda sul fatto difendi che difendi pure Madonna, ma bravo. No, ma difendi adesso chiameranno quattro zotici, perché poi non è che tutti quelli che ascoltano sono quelli che chiamano. Quattro zotici che tu sobillerai. Questi chiamano e diranno come degli orchi, no? Bravo. Madonna non può parlare, bravo. No? Difendi il tuo orticello, pota, mi raccomando. Pota. Difendi il tuo orticello, ma bravo. Dai, difendi la tua onorabilità. Difendi la tua onorabilità. Quattro zotici che chiamano, quattro zotici che sembra che siano il mondo. Bene. No, sono solo quelli che chiamano. Silenzio. Sono molto pochi rispetto a tutti quelli che ascoltano, bene, peraltro. Sì, certo. Collegamento da Dubai, Gianfranco Librandi. Buonasera Librandi, come sta? Buonasera, sto bene, voi? Non c'è male, non c'è male. Gli italiani stanno bene? Beh, sono tutti gli italiani, insomma, tutti gli italiani non credo. Senta, signor Librandi, io voglio capire una cosa. Oggi a Oderzo è successa una cosa incredibile, cioè ieri sera in realtà. Molte persone di fronte ai ladri hanno sparato in aria per intimidire i ladri. Hanno fatto bene secondo lei o hanno fatto male? Mi dica subito. No, hanno fatto malissimo, perché bisogna avvisare i carabinieri, perché sennò succedono delle cose che non vanno bene, dobbiamo farci giustizia da soli. Dobbiamo, come è successo a Ponte di Nanto, che è successo una cosa gravissima, dobbiamo cercare di ognuno di noi di rispettare il diritto, perché noi italiani abbiamo inventato il diritto, che è alla base di tutte le costituzioni, cioè, mi faccia capire, mondo, quindi... se uno ha il porto d'armi e vede dei ladri che si stanno avvicinando a casa e spara in aria, secondo me, secondo lei è un errore perché potrebbe essere, potrebbe causare guai? Ah, ho visto che quelli di Oderzo hanno sparato in aria, però hanno che ha fatto delle minacce, hanno detto che la prossima volta non sparano in aria. No, anzi, hanno detto che sparano addosso. Che invece di fare queste minacce, cioè si armino di tecnologia, cercando di mettere degli allarmi e magari nelle loro case dei ponti radio con i carabinieri. Magari cercheremo in Parlamento di fare dei provvedimenti. No, ho capito, però per Librandi, il problema, d'accordo, quello vedremo, però questa gente qua è gente che è incazzata perché subisce furti, vede avvicinarsi i ladri e spara in aria per far andare via i ladri. Infatti, guardi, quelli sono scappati. Aspetta, adesso dell'esagerazione, no? Noi diciamo che la salute non va bene, poi viene fuori la statistica che siamo i migliori d'Europa. Noi diciamo che ci sono 140% di furti in meno. Che non è vero, poi diciamo che ci sono omicidi che superano le... Dunque non c'è un problema a sicurezza. Eccoci qui la Zanzara in diretta da Dubai, l'onorevole di sciolta civica, io la chiamo così, mi perdonerà, Gianfranco Librandi, il quale controcorrente dice che non bisogna difendersi con le armi ed è meglio sempre chiamare i carabinieri, sempre usare la tecnologia, mai sparare. Però io, caro Librandi, devo dire la verità, sarà perché faccio il conduttore radiofonico, sarà perché sono diventato pazzo, come dice Parenzo, sarò diventato demagogico, però non posso dare torto ai signori di Oderzo, di Faedi Oderzo, i quali, possessori legali di un'arma, di fronte al procedere, di fronte all'avanzare dei ladri in casa, hanno sparato in alto, non addosso. Ma anche se effettivamente con la pistola come John Wayne. Come, scusa, gira con la pistola come John Wayne, ok, Corral? Ma no, io non la voglio, guardi, portare. Lei, nella sua posizione di conduttore della Zanzara, ha una grande responsabilità. E allora? Quella di spiegare alla gente esattamente il contrario di quello che ha detto adesso. Perché noi abbiamo tutti gli strumenti per combattere o per prevenire le problematiche. Le stavo dicendo prima che noi siamo il paese dell'esagerazione. Cioè, secondo lei la paura di queste persone è esagerata, Librandi? È esagerata la paura? Le statistiche del Veneto sono è una delle regioni dove ci sono meno problemi con i furti e con gli omicidi. Quindi dobbiamo sicuramente cercare di tenere calmi i cittadini, di ho capito, ma c'è un sacco di gente che dice che rendere più sicura l'Italia, no, ma non certo armandoli o dicendo che possono sparare per aria o in qualsiasi modo possono sparare, perché ha visto come è finita a Ponte di Nanto. Beh, a Ponte di Nanto un signor rapinatore con la pistola in mano è stato ucciso, non mi pare un cattivo risultato, scusi, no, signor Librandi. È stato ucciso? Beh, io non sono d'accordo, è stato ucciso, bisognava chiamare i carabinieri, bisognava arrestare anche i complici di questo rapinatore, bisognava evitare le spese che ci sono adesso per i cittadini, perché adesso il Graziano Stacchio e anche l'Orefici sono curati con i carabinieri e la polizia, e questa cosa costa 700-800 mila euro alla comunità. Se tutti facciamo così, nel giro di poco tempo ci carichiamo di costi esagerati. Cioè, lei sta dicendo, scusi Librandi, che alla fine la bravata, come la chiama lei, quella di Stacchio, la reazione di Stacchio, ci è costata un sacco di soldi, quello sta dicendo? Ma io la posso anche capire, perché Stacchio è una persona che qualche anno prima ha salvato una persona, è stata una reazione istintiva. Quindi umanamente la posso capire, però se posso diciamo dire qualcosa, dico che non si fa così, perché a 4 chilometri c'erano i carabinieri, si poteva suonare con il ponte radio, cioè attivare il ponte radio, si poteva telefonare. Ma non si può, ho capito, si poteva attivare il ponte radio. Librandi, il problema è che non è che in quelle occasioni uno, in quelle situazioni uno dice: beh, scusate un attimo, signori rapinatori, forse chiamo i carabinieri o uso il fucile. Quello c'aveva il fucile, guardi, e ha sparato. Tra l'altro gli hanno sparato, gli hanno sparato prima. I rapinatori stavano entrando, no, non gli hanno sparato loro addosso. Beh, sembra di che ha fatto l'investigatore pure. No, non ho fatto l'investigatore, mi sono informato, ho letto com'è la situazione. I rapinatori stavano entrando nella gioielleria, e a quel punto si poteva chiamare i carabinieri, invece non lo so cosa sta succedendo. Cioè, secondo lei ha agito male, diciamo la verità, ha agito male, ha peggiorato la situazione, ha complicato la situazione, cioè poteva finire senza un morto. La situazione personale, perché adesso ha una vita difficile, io penso che anche lui l'ho visto in tante interviste. No, ma no, non ci poteva essere il morto, dice lei, cioè alla fine se non avesse sparato non ci sarebbe stato un morto. Ma non è solo la storia, il problema del morto, che è una cosa gravissima, il morto, perché una vita umana è più importante di qualsiasi cosa. Ma secondo lei dovrebbero arrestarlo? Però o no? Bisognava arrestarlo, bisognava arrestare i complici. No, arrestare Stacchio, arrestare Stacchio. No, Stacchio, c'è una legge per eccesso di legittima difesa, verrà giudicato. Io spero che si terrà conto del fatto che lui si trovava in una condizione particolare, quindi ho detto prima che, cioè, così umanamente lo posso capire. Scusi, però mi pare strano che l'anomalia deve essere un esempio per gli italiani, perché in Italia non abbiamo una situazione dei furti, degli omicidi fuori controllo. Cioè, secondo lei questi abitanti di Oderzo che dicono, e anche il sindaco, quello che dorme col fucile sotto il cuscino, che dicono? Esatto. Da noi rubano il formaggio. Sì, da noi rubano, eccetera. Magro. No, loro devono rivolgersi alle forze dell'ordine, devono attrezzarsi con degli allarmi, con dei sistemi di... Ma se non si sentono protetti, e questi continuano a rubare, lei dice che esagerano, che in realtà i furti non sono poi così tanti, anzi diminuiscono, questo ha detto lei. Ho detto che i furti non sono 140% in più, come ho sentito in una trasmissione televisiva, sono qualche percentuale in più che è legata alla disoccupazione. Adesso la disoccupazione sta diminuendo. Ma quindi, scusi, ma Librandi, per esempio gli omicidi negli ultimi 10 anni sono diminuiti del 30%. Ma però, quindi, scusi, sono istigati dalla Lega questi, allora? Ci sono più omicidi in Germania in proporzione agli abitanti che in Italia. Dunque, questa gente qua è istigata dalla Lega, da Salvini, dice Parenzo. No, assolutamente, non credo che Salvini è una persona intelligente, non istiga, magari sfrutta l'occasione, ma non istiga sicuramente alla violenza. Io direi che dobbiamo capire la reazione anche delle persone di Oderzo di questa frazione. Però scusi un attimo, Librandi. Dobbiamo spiegargli che l'Italia non devono sparare. Beh, no, ho capito. Scusi un attimo, Librandi, un'ultima cosa. Lei però ha detto una cosa prima che mi sembra significativa. Ha detto alla fine questa reazione di Stacchio ci sta costando 700-800 mila euro. Cioè adesso gli dobbiamo dare la scorta. Se non avessero sparato, diciamo, non costerebbe tutti questi soldi alla comunità, giusto? Giusto, diciamo che la comunità ha il dovere di proteggere queste persone, però diciamo che era meglio fare in un altro modo, chiamare le forze dell'ordine che sono preposte per fare questa attività, fare in modo che loro venivano e cercavano di arrestare molti danno la colpa ai Rom. Ma guardi, i Rom in Italia sono tanti, sono 130.000 che molte volte vengono accusati di cose che non fanno, gestione campi Rom dove diciamo molti soldi spariscono non per colpa loro, quindi mettiamoci di impegno, cerchiamo di gestire problemi dei campi Rom, cerchiamo di dialogare con loro, di trovare un modo per integrarli il più possibile, perché sono delle persone umane come noi. Va bene, arrivederci Librandi, a presto da Dubai. A presto. Bella grazie, la vita, ciao, ciao. Buonasera, grazie. Bella ciao. La vita Dubai. Bella vita Dubai, signor Librandi, da Dubai parla della gente di Fai Odenzo. Ma era, dai, no, ma su. Che c'entra? Vabbè, ma era magari per lavoro. Sì, certo, ho capito, ma da Dubai ci fa la lezione su Fai Odenzo dicendo che devono sparare. La gente per i ladri in casa e spara in aria, adesso il problema sono quelli che sparano in aria. Ieri sera ero a cena con il signor Bistecca, che è uno che ti ascolta, detto il Bistecca, non posso dire il nome, perché insomma, detto il Bistecca, che vi diceva in romanesco, mi ha detto, molto simpatico il signor Bistecca, il Bistecca ieri mi ha detto, gli devi dire a Cruciani di darsi una regolata, perché ormai è impazzito, il Bistecca, che un giorno se vuoi chiamiamo alla radio, così te lo dice lui come si deve, Bistecca, e allora, salutalo il signor allora, Bistecca, lo saluto volentieri, saluto Bistecca, devi dire. Sì, ma io ho capito, la differenza tra me e te è che io non ho nessun tipo di rispettabilità da difendere, tu devi difendere una rispettabilità di fronte alla tua comunità, io no, capito, questa è la differenza, io, non è che comunità, pubblicità, poi sentiamo gli altri, no, sentiamo Gianni dalla provincia di Milano, lasciamo perdere, dai, Gianni provincia di Milano, poi chiedo due cose a Oliviero, vai. Sì, senta, Senta, io volevo difendere Parenzo perché tutti lo ce l'hanno con lui. Ma in tutti realtà, chi? Lui ma chi se ne frega? Una percentuale minima, ma non, di chi vabbè, chiama? Ma non c'è bisogno che rispondi ogni volta, vai Gianni. Parenzo è un genio, perché se un coglione come Parenzo lavora in televisione, lavora in casa. Radio, c'è una speranza per tutti. Sì, ma parli meglio, se no non si sente. Parli più forte, se no non si sente. Tutti a casa sua, mi raccomando. Se Parenzo è in grado di fare funzione, andare in radio, per me è un genio. Ma è un genio perché un coglione così non può. Ma cioè, ho scritto anche sui giornali, sa? Sì, va benissimo. Allora, ma non solo, ho scritto anche uno spettacolo teatrale. Ma è mica uno. Ma sono stati tanti, in 20 anni di lavoro, sono stati tantissimi, Mamma mia, guarda, io veramente farò un fan club perché lei è un esempio per tutti noi. Se ce la faccia lei, ce la possiamo lei fare. Lei invece di che cosa si occupa esattamente? Io sono avvocato. Avvocato, bravo, bene. Sì. Avvocato civilista, penalista, tributarista. No, diritto finanziario. Bravo, benissimo. Vedi. E c'è qualcuno per lei? Anche per perché me. Lei dice che è un coglione, sicuro. Gianni? Ma perché c'è qualcuno che la reputa brava, ma bravo magari, perché viene da lei, giusto? Sicuramente. Gianni, perché lei pensa perché lei pensa che Parenzo è un coglione? Perché Parenzo dice tutte le cose che pensa, perché ha il culo seduto bello lì di fianco a Toscani, oppure a Roma, sono seduto vicino perché a Toscani. Se si vedesse se si vedesse un Roma, ma io a Milano ho vissuto in un posto che si chiama Viale Monta, salame d'un salame che non sa neanche dov'è. A Milano io per 10 anni ho vissuto in un posto che non era via Biglio, via della Spiga, si chiama Viale Monza, lo ho mai sentito nominare. Poi che cosa vuol dire che se uno deve per capire una cosa ci deve vivere? Io ho vissuto anche in periferia delle città e so che nelle periferie delle città c'è criminalità italiana e anche di colore, ma si chiama criminalità, hai capito? Vabbè, l'avvocato va bene, che telefona. Fabio, provincia di Treviso. Fabio, avvocato. Vai, Fabio. Sarà anche avvocato, ma il cervello in pappa. Vai, Fabio, dimmi. Io sono di Oderzo. Sì. Volevo dire una cosa. Cioè, ah, Oderzo, dove è successo il casino? Sono, sono cittadino di Oderzo, sì. Volevo dire che qui abitanti di Faè, del borgo di Faè, hanno reagito in quel modo per dei motivi che voi non avete detto. Cioè, quella frazione è oggetto continuo di visite di malfattori che continuamente vanno a svaligiare le loro case. No, ma lo so, l'abbiamo detto, come non l'abbiamo detto? Abbiamo detto perfettamente, cioè stanchi dei furti che subiscono, hanno reagito sparando in aria quando hanno sentito qualche rumore strano di ladri che stavano entrando a casa. Io non capisco quale sia, francamente, quale sia il problema. Cioè, il grande stupore per il Far West, gente che legittimamente ha le armi a casa, ovviamente se non hanno il porto d'armi non va bene, hanno il porto d'armi, sparano in aria, certo dicono anche che la prossima volta spareranno all'altezza d'uomo. Formaggio ha detto per esempio che se qualcuno entra dentro casa sua gli spara addosso, benissimo, se ne assumerà la responsabilità. Dopodiché la gente che legalmente ha delle armi spara in aria, fa scappare i ladri, si grida allo scandalo, cioè il problema sono loro e non di questi che vanno a rubare, capite la follia? Fabio, dica pure. Quando dicono che siamo nel Far West, sì, forse è vero nel Far West, ma quale Far West? Ma un momento, noi siamo nel lato debole del Far West, cioè noi siamo quelli che siamo continuamente sottomessi da continue angherie, da continue soprusi da Roma o da non Roma, anche da gente locale. Quindi è troppo facile fare il falso moralismo, il semplice moralismo, dire non si può andare per le strade con le pistole, non si può. È troppo facile dire quello che dice, quello che ha detto prima, quello che era a Dubai. A Dubai quel signore che si trova sicuramente per motivi di politica, di affari, no? Di affari, probabilmente di affari. Un controllo poliziesco tremendo. Quando tu arrivi a Dubai, vabbè, però Dubai diciamo non è un modello, no, non può essere un modello, con uno spinello vai in galera. Vabbè, ma questo non è positivo, se cioè, il fatto che a Dubai vai in galera per uno spinello scusami, abbi pazienza, preferisco non andare in la polizia, bisogna chiamare i carabinieri, bisogna dotarsi di impianti. Sì, parla più vicino, se no non si sente, dai, forza. Bisogna, quel signore di prima diceva, bisogna chiamare i carabinieri, bisogna dotarsi di impianti di allarme, bisogna chiamare i carabinieri. Voglio vedere quando uno si trova di fronte ai ladri in casa, chiami i carabinieri, ma che sei, Mazinga, dai, su. Cioè l'Italia è il ventre molle dell'Europa. Vabbè, Fabio, ho capito perfettamente, ciao. Ma scusami, ma tu sei fuori di testa, se... Ottima trasmissione, sempre la migliore. Allora, Allora, fra poco collegamento con Bruxelles, col Parlamento Europeo, dove ci sarà Gianluca Buonanno che ci spiegherà cosa è successo con Facebook, bloccato da Facebook per 24 ore, rimosso il video sui Rom. A me pare incredibile, è vero che Facebook può fare quello che vuole, però molte altre cose non vengono bloccate, soprattutto quel video può circolare liberamente in tutte le televisioni, in tutti i siti, noi l'abbiamo mandato spesso, non si capisce perché un parlamentare europeo, ma lasciamo perdere il fatto che il Parlamento Europeo debba essere, come dire, bloccato dal signor Zuckerberg, cioè dai signori amministratori di Facebook, solamente perché viene riproposto quel video senza nessun commento da parte del titolare, cioè non c'è nessuna volgarità, nulla di nulla, e il signor Buonanno è stato bloccato per 24 ore. Vabbè, Parenzo è contento, mi sembra, no? Parenzo, sei contento, no? Io ho detto che è una decisione che ha preso Facebook, come lo fa per altri, mica solo per lui. Ha ritenuto quel video offensivo, ma perché qualcuno da per lo tutto, ha denunciato. Circola dappertutto, ma anche in altri. Ma un'azienda privata avrà diritto. Vabbè, di... ma dillo so se sei contento, dillo chiaramente se sei contento o no. Ma non so, no, io reputo quello che. Ma no, che sono contento o no? Perché tanto l'ho visto anch'io quel video. Ma reputo quello che ha fatto una vergogna assoluta. Vabbè, quello lo sappiamo. Certo, ma no, le frasi che ha usato. Vabbè, il disprezzo l'hai che ha usato. L'hai già detto, cioè, no, ma sai cos'è che mi fa più male? Che ormai cos'è, non si scandalizza più nessuno. Cioè, ormai dire i Rom sono feccia, i negri fanno schifo, lo puoi dire perché ormai non si scandalizza. Non è la stessa cosa. Questo è di una gravità inaudita. Questo mi fa vomitare, per usare un linguaggio. Vabbè, dunque, che forse Buonanno ti fa vomitare. Perché bisogna. Dunque, mi Buonanno fa vomitare. Sì, dunque, puoi ripetere, Parenzo, due punti. Buonanno mi fa vomitare. Dice, no, quel che dice Buonanno mi no, fa però vomitare. Non fare immoderato in questi casi, perché quel a te Buonanno fa vomitare, quel ma non lo vuoi che dire. Dice, ma lo sto dicendo, quel che dice Buonanno mi fa vomitare. No, ti fa mi vomitare fa lui. Ti ma fa non vomitare lui, quelle sue idee mi fanno vomitare. Io rispetto le persone, però posso non rispettare le idee delle persone quando sono sì, ma... volgari. Vabbè, fermi tutti, c'è il traffico, poi c'è il traffico, poi andiamo a Bruxelles. Tranquilli, accetto tutti, tranne le stronzate. No, ma qui quello era una cosa al termine di un ragionamento sui furti e i Rom. Sui furti e i Rom. Dire che i Rom sono la feccia, urla. Vabbè, ma... fallo risentire, scusami. Allora di che Facebook ha sbagliato a bloccare quella roba lì. No, Facebook è un'azienda privata, ha ritenuto su segnalazione di doverlo bloccare. Lo può fare, io magari non l'avrei fatto, lo stai facendo risentire tu. Ma è legittima la scelta di Facebook. Io su Twitter, quando è legittima. Quando su Twitter trovo un idiota, lo blocco, ma devo farmi insultare gratuitamente, no? Se mai a pagamento mi faccio insultare. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Ed eccolo in collegamento da Bruxelles, ancora una volta l'uomo del giorno, Gianluca Buonanno. Buonasera. Ciao a tutti. Allora, ciao. Gianluca, spiegaci un po' questa cosa. Tu hai messo il video, quello ormai famoso di Piazza Pulita, in cui hai detto che i Rom sono la feccia della società, su Facebook. Quando l'hai messo? Quasi subito? Ma l'ho messo praticamente il martedì mattina. Ieri mattina? Praticamente suddividendo in due parti. Una parte è quello della missione in Libia, sì. Quello è rimasto su Facebook. E poi l'altra parte, diciamo quella che ha riscosso più discussione, sì. Quella sulla questione del Rom fece della società, sì. Quello nel giro di poche ore ha avuto centinaia di commenti, di cui credo, facendo una statistica, almeno l'80% a mio favore, anche gente di sinistra, e centinaia di migliaia di visualizzazioni. A quel punto che è successo? A quel punto è successo che oggi pomeriggio, intorno alle 14, si blocca Facebook, mi chiamano dicendo guarda che c'è un problema a Facebook, e viene fuori che hanno tolto il video delle mie esternazioni sui Rom e sugli zingari, bloccato tutto per 24 ore, quindi io non posso neanche dire guardate che non trovate più il video oppure è successo questo, non posso scrivere nulla. Ma tu non ho capito che hai intenzione di fare adesso dopo aver detto secondo te Zuckerberg cosa ti rappresenta a questo punto? No, mi ricorda il califfo, insomma, qua decidono tutto quello che vogliono fare con una violenza inaudita, la democrazia non esiste, e parlando con il mio avvocato lo citerò per chiedergli 10 milioni di euro di danni, perché io, avendo 30.000 tra virgolette follower, non posso più comunicare. Tra l'altro io domani vado in Libia, non posso neanche far sapere che cosa succede tramite Facebook, e il risultato è che questa, la democrazia non esiste, questa multinazionale decide ciò che si può dire o no. Io sono un deputato europeo, può piacere, ma come mai, scusami, come mai ha bloccato proprio questa cosa sui Rom secondo te? Non so, mi viene da pensare che abbia delle origini rom, non capisco che cosa vogliamo fare, perché su tutti Zuckerberg origini rom, signor non lo so, Zuckerberg. No, veramente cosa, mi risulta sia ebreo, no? Parenzo o no? Zuckerberg o no? Sì, mettigli anche una stella gialla magari. No, sì, certo. Ma che c'entra? No. Ha detto non c'entra niente con i rom, per no, questo volevo dire. È ebreo, sì, ma non credo che abbia bloccato lui direttamente questo. Zuckerberg, no, se Zuckerberg credo considera uno sputo, cioè non sa neanche chi è Buonanno. No, io no, immagino, hai detto considera uno sputo Buonanno, questo. Ma uno sputo, ma siccome come tutti noi, come considererebbe me uno sputo perché non ci conosce. Cioè, se gli dicono, gli telefonano, sì, no? Capito, ma è il responsabile di Facebook. Pronto, segreteria di Buonanno, voglio parlare con Zuckerberg. Beh, cosa fa? Che succede? No, guarda, secondo te risponde? Gli manderemo la questione dell'avvocato perché mi ha creato un ma danno. Ma tu ti immagini una abitare. Conversazione tra Zuckerberg, che è l'inventore di una roba che ha rivoluzionato il mondo, con Buonanno? Ma cioè, bisogna avere il senso della misura, scusa, no? Scusa, ma tu ti, Parenzo, ma se tu chiami, ma manco il centralista, neanche con la centralista Parenzo, di Zuckerberg riesce a parlare. Ti voglio ricordare che negli ultimi tre mesi ho avuto il piacere di conoscere il Santo Padre di parlargli insieme, Draghi di parlargli insieme e ieri Mattarella. Povero. Tutti incontrati al Parlamento sì. europeo, così al Parlamento europeo, quindi comunque cioè, vabbè, ho capito, incrociati al Parlamento europeo. Come si permette questo di decidere ciò che posso dire o no? Perché la sostanza è, io dico, non tutti i delinquenti sono rom e zingari del Pacifico, non tutti lo sono, ma è anche vero che quasi tutti i delinquenti sono rom e zingari. Beh, okay, questa no. è la verità. È come hai detto addirittura peggio da un certo punto di vista. Scusa, ma furti, borseggi, bugie, ma provate ad andare in giro a vedere, stazione Termini, un disastro. Senti, ma la signora Pavlovic ha detto che ti denuncia, che ti denuncia. Ma scusate, anche questa qui che fa l'attrice trombata dall'elezione perché era candidata per Tsipras e poi non è stata eletta, quindi trombata alle elezioni, viene a fare lì l'ipocrita con quella paginetta qui e là. Ma non ce ne frega un tubo di queste cose del nazismo, della Svizzera, di quello che vuoi. Ha detto che sei nazista praticamente, che hai fatto un'incitazione alla violenza. Ma io me ne frego di quello che pensa lei. Io ho detto anche nella trasmissione ed è registrato, io con lei non ho nulla e non ho nulla contro gli zingari in generale. Beh, insomma, che si questo. Comportano bene. Dopodiché per me aspetta, sono, e lo ribadisco, la feccia della società, feccia, tutti ecco. quegli cioè, zingari rom che vivono rubando, no. che vivono facendo no, tu hai detto fronte, i rom sono i rom sono una la feccia della società, non ti penti di quello che hai detto? Assolutamente non ti penti. Assolutamente no, lo penso, lo ripenso e lo ridico e continuerò a dirlo, e la stragrande maggioranza degli italiani la pensa come me. Ma guarda che non è questa la verità. Ma guarda Toscani, che non è che... Toscani. Aspetta, Toscani. Toscani, qua. Che hai fatto, Olivier? Che hai fatto? Non ho seguito. Hai detto tu prima, hai detto che il signor Buonanno è lui la feccia della società. Diglielo in faccia, se hai coraggio, diglielo. No, ma se dice queste cose qui lo è. È chiaro, qualcuno l'avrà votata, ma non è che abbia ragione perché c'è una minoranza che l'ha votato. Ho capito, ma lui ha detto che moltissimi rom rubano e per questo sono la feccia della società. Questo ma tutti quelli che rubano sono la feccia della società. No, no, no, la feccia, no, ma la feccia più alta. Sì, la percentuale più alta. Senta, lei dovrebbe no, conoscere, la, dovrebbe sono, conoscere la storia degli italiani, degli immigrati italiani. No, più di tutti gli altri. Ma non è vero, chi l'ha detto che rubano più degli altri di tutti gli altri? Basta chiedere ai carabinieri e alla polizia, io la stimo come professionista. No, però ma se permette, magari qualche altro è una vivo in mezzo alla gente, magari lo so. Ma anch'io vivo in mezzo alla gente molto più, da molto più tempo di lei, scusi, No, come fa a dire la feccia della società? Ma la feccia della società sono, per esempio, la Lega quando ha rubato anche lei, no? Anche la Lega ha rubato, non è la feccia della società. Come lascio perdere? Adesso? No, cosa c'entra? Cosa c'entra sì. Adesso? Cosa c'entra adesso? Ma cosa dice lei? Scusi, chi ruba è la feccia, è logico. Beh, sono due cose diverse però, Olivier. Ma dai, rubare è rubare, ragazzi. Sì, però sono due cose diverse. Io quella... faccio un discorso in generale. Cioè, se lei va a chiedere a 100 persone che cosa pensano degli zingari o se hanno degli zingari vicini di casa, il 99% dicono che sono preoccupati, se mettono le mani in tasca, chiudono le porte e le finestre. Perché? Perché tutti hanno questa sensazione di paura. Ma secondo te, no, ma ho capito perfettamente, non ho capito, Toscani, secondo te Buonanno è razzista, Olivier? Ma è un po' sì, lo è, mi spiace dirlo, ma lo è. Diglielo in faccia, razzista, Buonanno, siete razzisti, perché è così. Siete razzisti, ma non può dire, lei deve dire chi ruba. Chi ruba sbaglia. Vabbè, ma quello è chiaro, ma quello allora basta, ma non va per categorie. Beh, non so, per categorie sociali. Loro hanno una indole a rubare più degli altri, perché e non è possibile che la percentuale di furti che fanno loro, poi senza lavorare hanno la macchina bella, allora hanno più oro di un orefice, cioè, allora lei gli spara. Come fa? Allora non lei vuole, spara. Ma non vuole sparare, ma non so, ma no. Dico, non vabbè, si fa. Ma hai capito questa cosa di Zuckerberg che ha fatto questo di Facebook? Sì, sì, ma dico, ma Zuckerberg, Facebook è una cosa privata. Bonanno accetta andare su Facebook e deve accettare le regole di Facebook. Non è, non è che loro sono obbligati a far passare tutto quello che lei vuole, è logico. È così, no, però capito, io trovo abitare, no? Lei quello che ha detto lei non glielo pubblicherebbe neanche il Corriere della Sera, per esempio. Ma cosa? No. Invece l'ha pubblicato, ma l'hanno pubblicato tutti, l'hanno pubblicato. È su tutti i siti, sì, Oliviero. Sì, non so, ma è diverso il rapporto, capisci? Lui pensa che Facebook sia la suo autoparlante, non lo è. Ma tu andresti a pranzo fuori con Morano, Oliviero? Sì, come no, ma figuriamoci. Cioè non ti fa orrore con lui, anche con un uomo. No, ma figurati, Bonanno, mi spiace che le ragioni così, ma sembra è veramente un ragionamento da molto vecchio, insomma mi sembra di tornare indietro nel tempo. Ma no, mi scusi, Toscani, sì, posso farle una domanda? Come no? Allora, se lei vivesse insieme alla sua famiglia vicino a un campo rom, no, e succedessero quotidianamente furti, angherie, situazioni paradossali, eccetera, che faresti, Oliviero? Ma quello sta in una villa in Toscana, che gli hai fregato? Dico, non è questo il problema. Se, come no? Senta, no, Bonanno, senta Bonanno, se lei avesse un figlio che ruba, cosa farebbe? Vabbè, ma non è la stessa cosa, ragazzi. Non è la stessa cosa. Problema, no, invece no. Sì, lo sistemerebbe le feste, ma gli zingari rom usano i minorenni, i bambini per prendere. Scusa, ma qualcuno vuole che ti rimetti dal Parlamento europeo? Te l'ha chiesto un deputato. Aspetta un attimo, te l'ha chiesto un deputato del Partito Democratico, come si chiama? Viotti, una cosa del genere. Ti ha chiesto le dimissioni. Un sacco di gente ti ha chiesto le dimissioni. E come mai? Sì, questo me la chiede, che non possono darmi, però. Anche questo Viotti, no? Del PD, che si vanta di essere gay, no? No, si vanta, è gay, cioè non è che si vanta di essere vabbè, gay. Comunque, vabbè, allora continua a dire si vanta di queste cose. Bene, io dico che mi dimetto. Quando vedrò che lui si fidanza con una donna, ovviamente che non sia lussuria. Ma cosa vuol dire? Quando lui farà così, io faccio quest'altra cosa. Dopodiché io mio figlio lo punisco, ma non lo giustifico. Andiamo a cena insieme, che riesco. Non sono capace di fare autocritica. Io mio figlio lo punisco, ma non lo giustifico. I rom non credo che di dire che sono dei ladri, dei farabutti, tutti quelli che rubano e che ammazzano, e ce ne sono una marea. No, danno la colpa alla società. Danno la colpa alla società. Ciao a tutti. Io mi sono rotto le palle del buonismo, dell'ipocrisia. Lei non è buonismo, Toscanio, non è buonismo. Fermi tutti, devo dare la pubblicità. Ciao. Non è buonismo. Io voglio la giustizia. Ma vivi in una villa in Toscana, dai, su. Ma io voglio la giustizia. Mi dica un po'. Ma dai, dico, fermi tutti. Lei era contento se le hanno censurate le sue foto, era libertà. Stanno sul cazzo gli zingari, perché non pagano sull'autobus. Donne e bambine che rubano, non hanno voglia di sbattersi. Il nostro rame si prendono, sono sporchi che non si lavano. Se gli dai contro poi li picchiano. Sono tutti così. Ma tutti? Sì. Eppure quelli dell'Ecuador. La segreteria telefonica ha ragione o torto Gianluca Buonanno quando dice che i rom sono la feccia della società? 02 02 46 52 40 10, ve lo ripeto, 02 46 52 40 10. Buonanno ha perfettamente ragione. Se tutti gli zingari si trovano offesi, che andassero tutti a casa loro, poi vediamo se dicono che noi siamo razzisti. Ha ragione Buonanno, è stato anche gentile. Prendi un velo in mano, zingaro, rom, tu non devi rompere i coglion. Ha ragione Buonanno, tornate nella spelonca, portatevi quella chicca di Parenzo. Qui in Italia possono venire a fare quello che vogliono e nessuno gli fa niente. Però la gente adesso è stufa, si arma e spara, perché se vale per loro, allora vale anche per noi. Io aborro il pensiero politico di Buonanno, ma quando asserisce che i rom sono la feccia della società civile, sono pienamente d'accordo con lui e la prossima volta voterò per lui. Caro Buonanno, volevo dirti, perché non fai come Papa Francesco? Vedi un campo rom, ti fermi, entri dentro, così non esci più, pezzo di merda, razzista di merda, uomo di merda, ciao. Volevo augurare tanti rom a Capanna. Sì, tanti rom che lo sveglino dai suoi incubi del fine mese con un dolce bacino sulla fronte. Mua, amico! Vorrei che tutto finisse così! Mi stanno su cazzo gli zingari. Caro Parenzo, eccoci qui. Eccoci qui, caro mio Gino da Genova. Gino da Genova. Brutta sta canzone, chi è che l'ha fatta? No, ma guarda che questa canzone è ironica. Non hai capito una mazza. È ironica nei confronti dei razzisti. È ironica. Chiaro? No, perché è associata invece alle cose dette nella segreteria telefonica. Che mi aspettavo di peggio, devo dire. Ma c'era di peggio, probabilmente. Magari verrà di peggio. Verrà di peggio. Solo che speriamo di no. Magari ci arrestano poi se mettiamo le. No? Io infatti sono contrario. Ma tu sei contrario, ma è inutile che dici sono contrario a una cosa che facciamo. Ma io prendo le distanze, secondo me non andrebbe fatta questa iniziativa. Ecco, poi dopo per carità. Ma non ce ne frega niente, Gino da Genova. Se ti interessa, sì, certo che mi interessa. Mi interessa, allora io ti dico che secondo me fare la segreteria telefonica sui rom con questi quattro decorticati. Vabbè, Gino da Genova, invece l'intelligente sei solo tu. Gino da Genova, dai. È la gente che ha fomentare la paura e la rabbia. Non c'è nessun fomento, facciamo una trasmissione radiofonica, non dire cazzate, no, Gino ma da è Genova. La rabbia non della dire gente, cazzate, capito? Stiamo facendo una trasmissione radiofonica. Ma certo, non dire minchiate. Ma se io vado con un microfono Gino da Genova, non dire cazzate. L'hai sempre fatto, Gino da Genova. No, ma non ho messo la segreteria con gente. È arrivata la responsabilità democratica. No, non è responsabilità democratica, è idiozia di quelli che va bene, ho capito, vai, Gino da Genova, dai, Gino da Genova, dai. Però non posso parlare su quelle cazzate che dite voi due. Dai, Gino. Io sono pitigrì da rispettare. Lo sa chi sono io, lei? Pitigrì che vuol dire? Ma lei chi è? Il cugino di coso? Di... Bravo, bravo. Il cugino io di Monica. Ascolti, Beppe, per favore, sia gentile. Dimmi, caro. Mi lasci dire al mitico... al mitico chi? Adesso sono emozionato, non lo so. Ma dire emozionato? Sei il cugino di Mollica, tu di Vincenzo Mollica, che vuoi cugino dire a Toscani? Primo di Vincenzo Mollica, sì, dici tu, poi lui dice di no. No, lo dico io, e se lei, io ho bisogno di lei, di lei, signor Beppe. Tanto mi faccio salutare il signor Toscani, che è il mitico quando la domenica alle 13:30 con Nicola Sballario presentano Fatto in Italia. Mi sente Toscani? Sì, che vuole Toscani? Che vuoi da Toscani? Gino, non ho capito. Dimmi. Voglio che venga a Rapallo a vedere uno schifo che hanno fatto a Rapallo. Vabbè, ma Toscani non gliene frega niente, dai, su. Come non gliene frega? Ma vabbè, Toscani, Gino, che cosa mi volevi dire però? Toscani dimmi. Tutte le domeniche fa una bellissima trasmissione a Radio Radicale. Vabbè, amico mio, Gino, che mi volevi dire al di là di Toscani? Ho bisogno di lei che mi metta in contatto con mio cugino. Io non ce la faccio più, sto morendo. No, non stai morendo. No, no, non lo so che ha detto Gino, parla con Toscani. Pronto? Mi faccia sapere cosa vuole da me. Non lo so che cosa vuole, ragazzi. Gino, parla con Toscani, cosa vuoi da Toscani? No, da Toscani le chiedo se vuol venire ad Appallo a vedere uno scempio che hanno fatto. È motivo di una trasmissione che lui e Nicola Sballario mi mandi tutti i dati, io vengo. Ma che è successo a Rapallo? Ma io non ho gli strumenti tecnologici. Vabbè, poi ti aiuto io, Gino. Che cosa è successo a Rapallo? Oliviero Toscani.com. In una posizione, diciamo così, in una cittadina come Rapallo, in una posizione di prestigio centrale, c'era prima una vecchia canfora. L'hanno abbattuta, ci poteva nascere un centro sportivo. Vabbè, però noi, Gino, francamente non ce ne frega. Detto in maniera chiara, non ce ne frega un cazzo. Allora, hanno costruito una chiesa che, 30.000 tonnellate va di cemento. Va bene, d'accordo, se ne occuperà Striscia la Notizia. Dimmi un attimo, Gino, la questione Ascolti, Beppe, mi aiuti con Vincenzo, dai. Sì, vabbè, ti aiuterò con Vincenzo. Cosa vuoi? Facciamo l'ennesimo appello, molto breve, 30 secondi. Lei deve chiamare Vincenzo e mette, come sto facendo adesso con Oliviero Toscani, la ringrazio, di farci parlare insieme. Va bene, ma ti ho già fatto parlare insieme a lui. Lui è... No, lei non mi ci ha fatto parlare. Io ho sentito che lei una sera dopo di me, dopo dalla prima volta che io l'ho contattata, lei ha chiamato Vincenzo e mi ascolti bene. Vabbè, prendete il numero di Mollica, così, dai, forza, prendete il numero di Mollica, fermo lì. Che è abbassato, che ha fatto? Gino, no, chi è? Vabbè. No, ci sono, ascolti, aspetta, Beppe. Aspetta, dimmi. Lei una sera, qualche sera successiva, io ho sentito dalla macchina di un mio collega, io sono un taxista qui a Rapallo, si figuri. No, non ho bisogno di lui economicamente. Vorrei ma che vuoi da Mollica? Voglio chiedere intanto come sta la mamma giù in Calabria, perché non riesco più a raggiungere la quale, la mamma di chi? La mamma di chi? La mamma di chi? Afra Mollica, la mamma di Vincenzo. La mamma di Vincenzo in Calabria. Ma scusa, ma tua moglie la chiamavi mamma tu? Tua moglie? Mamma, perché c'è morto la figlia, adesso ci chiamiamo affettuosamente. Non lo sai che io ho avuto un dramma in casa mia. Sì. E di questo dramma ne vorrei parlare anche con Vincenzo. Sì, ho capito, ma tu la tua moglie la chiami mamma? Ci chiamiamo mamma e papà, sì, perché non abbiamo più nostra figlia. E siamo due teneroni, cosa devo fare? No, per carità, non mi devo mica vergognare. No, assolutamente no. Ma cos'è che mi volevi dire oltre al fatto di Mollica? Dimmi. Ma le dico, perché si vergogna di dire che è mio cugino, che è cugino di gente nata lassù nei posti. Un giorno perché io sono entrato in contatto con voi quando Parenzo disse: è meglio uccidere una mucca che. Le mucche a noi lassù, Vincenzo Mollica. Dove siamo adesso nati noi? Se squilla un telefono, parla direttamente. Aspetta, se squilla, se dovesse squillare un telefono, parla direttamente come se non fossi alla radio con me, capito? Ah, avete fatto il numero di Vincenzo. Grazie. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta. Grazie, grazie, grazie. Aspetta, che non possiamo fare le cose così a sorpresa, sempre in diretta, così, sempre. Grazie, grazie. Guardi, ma sei un rompicoglioni, sei un bel rompicoglioni, Gino. Le faccio un monumento. Io sono vi invito qui a Santa Margherita. Ma che me ne frega, a Santa Margherita ci vengo sempre io, dai, su. Ah, col suvone, ci vieni col aspetta, suvone, aspetta, aspetta, aspetta. Beppe. Aspetta, dai, parla, forza, parla. Sono in contatto con Vincenzo. Ma... aspetta. Chiudi. Niente, non risponde. Come sarebbe bello, sono emozionato, sto sudando, guarda. Lo so, beh, sto sudando, non esageriamo, dai. Una sera un mio collega, lei l'aveva ricevuta quella foto lì tramite, come si chiamano quegli strumenti? Ma stai zitto un attimo, aspetta, aspetta, magari risponde. Io avevo Vincenzo seduto sulle mie gambe. Ma che è la foto? Quando era piccolino, lui è tornato, non era negli Stati Uniti, era in Canada. Vincenzo, il segreto di Vincenzo Mollica. Dai, sì, insomma, Vincenzo Di che stiamo a parlare, dai. Sua mamma è nata a Formigine. No, è nata a Formigine. Ma perché è così grosso, zio Mollica, perché è così grosso? Perché è così grosso, diciamo, in carne? Vincenzone? Perché ha preso dalla parte del papà. E tu come sei invece? Pure tu sei, mi sa, grosso. Io sono pure grosso, sono 90 kg, ma sono anche alto. Sei alto, Lui è proprio ciccionissimo, ma è un bel ciccione di quelli proprio in forma. Lui hai visto com'è rosso di faccia? Sì, e allora? Perché era così rosso di faccia la parte di suo padre. Ah, ho capito. Vabbè, Gino, ci riproveremo la prossima volta, non ti preoccupare. Ti abbraccio, quando, dai. Quando posso saperlo? Che ne so, adesso ci metteremo d'accordo. Ma hai misurato con Righello, tu? A proposito, ho chiamato la Silvia di là. Sì, e ci ho detto che il motivo, io alla Silvia ho detto per dire, il Righello, ma scusa, Beppe, con Righello misuri la lunghezza, ma la circonferenza come la misuri? Tu dici del pene, no? Sì. Del pene. Del la circonferenza pene. Ci vuole il metro della sarta, da mamma, della sì, nonna. Sì, vabbè, lascia perdere la circonferenza che dobbiamo ricalcolare le cose. Hai misurato il tuo pisello? Ma io non ho più. Cioè, c'hai una chiocciolina ormai così, ormai morta. Perché la mia mamma c'è morta, la figlia non ne vuole più sapere. Ah, vabbè, ho capito, quello che c'entra che non ne vuole più sapere. La tua mamma c'è, che sarebbe la tua moglie, ho capito. Io glielo dico, guarda mamma, che un uomo ha bisogno, lei mi dice che devo fare i cavoli miei. Ma tu vai. Non mi consente neanche di andare in giro perché mi misura tutto. Ti misura tutto in che senso, scusa? Mi misura il tempo, il denaro che mi dà, mi dà la mancetta, sa? Sì, ma sei schiavo ormai, sei diventato un... Sono uno schiavo, comunque non mi lamento. Un burattino di tua mamma, che poi sarebbe tua moglie. Cioè, moglie. Ricapitoliamo per chi sta ascoltando in questo momento. Chi cazzo è questo imbecille? Parenzo, è come al solito, vai. Allora, ricapitoliamo la situazione. Allora, Gino sostiene di essere il cugino di primo grado. Ma sostiene, Il primo grado? Primo grado? Allora, la nonna, ascolti, a lei le parentele le apprenda subito. La nonna di Vincenzo Mollica, che si chiamava... come si chiama? Ma manco lo sai. La nonna mia di Mollica era la Cesira, la Noemi, sua nonna. La nonna di Vincenzo Mollica era Noemi Baroni. Beh, allora sorella di Cesira Baroni, mia mamma. Dalla Noemi Baroni è nata Afra. Dunque è cugino di secondo grado. Dunque io sono secondo grado. Sì. Cugino di secondo grado sostiene Afra, non sostiene, Afra ha sposato Pasquale Mollica di Motticella di Reggio Calabria. Ma chi se ne frega? Vabbè, c'era. Gino vuole parlare, con Vincenzo Mollica. Che dobbiamo ma fare? Non ce ne frega, ma non gliene frega un cavolo a nessuno che questo le dice di essere parente. Le dica per favore a Parenzo di stare. Parenzo, faccia il bravo, stia bravo. Ma non ce ne frega nulla. Non è vero, io ho bisogno del signor Cruciani. Vabbè, non ti preoccupare. Lei a Cruciani le ha detto esci dallo studio col tuo suvone grosso, è vero? No, è vero? Non ha detto questo, era cosa, era un altro. Vabbè, no, Gino, gliel'ha detto a lei. Hai misurato o no con Righello? Parenzo, hai misurato con Righello? Ecco, le dica a Parenzo di andare là dal suo bambino. Ma come fa a lasciarsi dire tutte quelle cose lì anche Parenzo? Partita IVA, ma che cavolo di... Vabbè, ma... Gino, vediamo di combinare i prossimi giorni, ciao. Marco da Verona, dai, Marco da Verona, ciao Gino, Marco, Verona, vai. Pronto, ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Allora, io sarei... Pronto? Sì, dimmi. Ah no, senti, tu. Allora, io sarei quello schifoso, sì. Uno dei tanti schifosi che... ascoltando voi, sì. Purtroppo ascoltando Parenzo, voterò Lega. Sono sempre stato simpatizzante della Lega. Ma che è? Sembri Erminio Boso, sembri. No, sono magro, sono da Verona. Vabbè, allora? E non bevo, giusto fargli capire l'altro. No, Parenzo ha detto che sono idioti, idioti, nei giorni scorsi. E schifosi. No, questo non mi risulta schifoso. Sì, comunque. Ieri sera vi ho ascoltati. Vabbè, allora tu dici, grazie a Parenzo io voterò la Lega, giusto? Sì, allora perché io mi chiedo perché continua a offendere così la gente del Veneto, continua a deridere la gente del Veneto. Non siamo ubriaconi, intanto c'è un magistrato che ha dato dell'ignorante a Toscani e non ha sbagliato, intanto sì, è vero. È un modo di dire che siamo ubriaconi, ma mi sembra che stiamo al settimo posto in Italia come regione, come consumo pro capite di vino, noi veneti. Al settimo. Vabbè, Marco, ti lascio, ci sentiamo alle 18:30 con tutti domani sera. Ciao, ciao. Ciao coppia di pazzi, ciao, buonasera. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Andate per una fanculo e finisce la questione, insomma. Radio 24. La passione si sente.